Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. Anna consigliava a Rebecca e Masa come dovevano educare Ghisola. Era però una bontà da padrona, perché così anche lei dipendeva di più dalla sua volontà. Benché le avesse davvero certi riguardi delicati, come quando diceva a Masa che non la facesse lavorare troppo, e come quando per Capodanno pensava sempre a regalarle un vestituccio nuovo, comprato su quei barroccini di merciai che si fermano all'uscio della trattoria. Ghisola, allora, le portava un mazzo di fiori, che per averli andava magari a rubare, e le faceva gli auguri. I compaesani di Domenico, quando andavano a Siena, mangiavano sempre alla sua trattoria, portandogli i saluti e le notizie dei parenti, e magari una fazzolettata di frutta. Uno di costoro, volendo che il suo figliuolo Antonio imparasse a fare il muratore, come a Civitella non avrebbe potuto, gli chiese che lo affidasse e lo raccomandasse a qualche bravo capomastro. Domenico, i giorni di festa, lo invitava a stare con Pietro, e così ambedue i giovanetti, che erano quasi della stessa età, dovettero diventare amici, sebbene non andassero d'accordo, ed Agostino, che aveva antipatia per Antonio, fu sostituito. E siccome per passeggiata soli arrivavano quasi sempre, come voleva il trattore, a Poggio a Meli, dopo qualche mese Antonio si vantò di aver parlato di nascosto con Ghisola. Ed era vero. Ma Pietro, dapprima, suppose che mentisse, con una delusione violenta, con un dispiacere che pigliava tutto il suo amor proprio. Un amico non doveva mentire. Che aveva detto a Ghisola? E perché le aveva parlato senza avvertirlo? Quale umiliazione provava quando gli altri non rispettavano i suoi sentimenti e obbligavano la sua anima a disfarsi? Gli altri facevano di lui quello che volevano, e a lui si stringeva la gola dall'emozione, arrossiva, si sgomentava, sentivasi perso. E nessuna cosa era adatta per lui. Le strade troppo faticose, il sole troppo caldo, gli abiti tagliati male, le mani troppo grosse. Affannandosi a non riflettere a ciò, di convincersi del contrario, stordendosi mentre gli orecchi gli rombavano e credeva di dover cadere da un momento all'altro. Gli sembrava che la sua faccia non fosse capace a nascondere la lealtà troppo aperta e ostinata, provandone una violenza che gli dava il malessere. Si sentiva debole sotto il suo spirito affannato, che egli stesso voleva cambiare. Una domenica, tra le altre, tornò con Antonio a Poggio a Meli, perché aveva scommesso di farlo passare da bugiardo dinanzi a Ghisola. Ma si vergognava di dirgli quel che soffriva dentro di sé, e sentivasi così da meno del suo amico che gli pareva di statura anche più alta del solito. Già camminando s'erano bisticciati, picchiandosi sulla schiena, ed egli aveva piuttosto voglia di smettere e di piangere, disperato che l'altro invece ci si divertisse. Antonio, avvedendosi facilmente dei turbamenti di Pietro, gli gridò: «Vedrai se non è vero!» Pietro non rispose più, e l'amico soggiunse: «Le parlai anche l'altro giorno. Ha promesso di voler bene a me e non a te!» E per troncar corto gli dette un pugno, ma Pietro se lo riparò con una mano. Antonio, sempre più sicuro, seguitava a ripetere: «Tu non ti avvicinerai a lei, nemmeno tu. Io farò quello che voglio». Fingendosi risentito, si riaccostò con la saliva bianca che gli usciva di bocca. Anche quando non parlava, gli si vedevano tutti i denti di sopra, sani ma storti. Sembrava che li avesse piantati nel labbro, e aveva il naso piegato da una parte. Pietro, cercando di persuaderlo con la bontà, gli disse: «Ed io mi adirerò con te. E che mi importa? Fai quello che vuoi. Io sono amico di tuo padre e verrò quando mi pare. Anzi, tuo padre qui al podere mi ci porta più volentieri che te». Pietro si sentì combattuto senza riparo. Era proprio vero quel che aveva detto. E seguitarono a camminare accanto. Ma dopo un poco Antonio lo fermò per guardarlo in faccia, trattenendolo per un braccio. Poi fece una sghignazzata. «Stai zitto!» Poi sputò sull'erba, asciugandosi la bocca con il dorso della mano. Pietro disse: «Io torno indietro». «Io no!» Voglio parlarci. Vattene. Torna indietro anche tu. Voleva evitare che Antonio la vedesse, ma quegli proseguiva. E allora Pietro dovette fare altrettanto. Quando giunsero davanti all'aia, Ghisola usciva di casa proprio in quel mentre e s'avviava nel campo a chiamare il nonno, passando accanto alla bella pianta di ciliegio da capo a un filare di viti. Antonio, per fare il più bravo, le mosse incontro in fretta, ma Ghisola rise di più a Pietro e dette a capire che si fermava lì per lui. Allora Antonio si mosse per cogliersi una picca di ciliegie, lasciandoli discosti, e Pietro le domandò: «È vero che vuoi bene soltanto a me? Dimmelo, se non fosse vero...» «Soltanto a lei», gli rispose con dolcezza. «Però Antonio non vorrebbe». Allora non si sentì sicuro e guardò il dorso dell'amico. Ghisola, accortasene, aggiunse: «Non ci crede», e scosse la testa. Ella parlava questa volta con una tranquillità così profonda che egli fu subito rassicurato. «Ma non se ne faccia accorgere da lui! Perché ce lo porta?» Gli sembrò che lo rimproverasse di non stare a solo con lei e credette che ne soffrisse. Ma la sua bellezza lo distrasse e gli fece dimenticare quel che Antonio aveva detto. Antonio intanto si riavvicinò, certo dopo aver progettato qualche cosa, sputando lontano i noccioli delle ciliegie mangiate tutte insieme, aiutandosi con un dito per cacciarseli di bocca. Pietro, mentre un brivido lo scuoteva, gliene strappò una picca infilata alle dita. Antonio esclamò: «Perché me le levi? Dalle a Ghisola piuttosto». Pietro non seppe che rispondere, perché avrebbe voluto che quella cosa non gli fosse stata suggerita, e restò con le ciliegie in mano. Ma Ghisola lo cavò d'impaccio: «Io le prendo da me». Quanto gli parve buona e intelligente! Ma Antonio non si perse d'animo. «Se non ci arrivi, ti abbasso il ramo io». Allora Pietro notò come a lui non sfuggiva mai nulla per ingraziarsela. Ma Ghisola, aspettandosi anche questo, sorrise e disse: «Non importa», ma con un'insolenza che Pietro sussultò sorpreso e pensò: «Perché non è venuto a me di dirglielo prima? Ora non c'è più tempo, e quanto piacere ella avrebbe avuto se glielo avessi detto io!» Si guardarono tutti e tre in silenzio, stando in cerchio, ma si sentirono per un istante amici e senza ostilità. E sentirono anche il bisogno di dirsi più di quello che s'erano detto fino ad allora. Ghisola sembrava più lieta, si mandava indietro i capelli, toccava il laccio del grembiule, come per invitare a farselo sciogliere. Ma Pietro credeva che se ne volesse andare, perché non riesciva a dirle niente. Il ciliegio aveva il pedano nero e rossiccio, aperto da profonde screpolature come spacchi, ripieni di resina dura e lucente. Una fila di formiche saliva ed un'altra accanto scendeva, brulicanti. Pareva di sentirsele camminare addosso. Vicino, sull'erba acciaccata, c'era rimasta una pozzanghera di solfato di rame incalcinato. Sopra un fragolaio pendeva un fico, senza nemmeno una foglia, tutto liscio, con i rami quasi arruffati insieme, e la sua buccia era di un bianco roseo. Qualche rospo s'udiva dai fondi dei borri, tra i salci potati e rossi. Pareva che non ci fosse nessuna ombra, ma le nebbioline, che restavano basse come le piante, salivano dalle terre vangate. Antonio, vedendo Pietro assorto, l'urtò. Quegli, per non cadere, fece un passo innanzi, presso Ghisola. Ma non fiatò, perché Antonio non volesse picchiarlo proprio lì. Gli parve che ella odorasse molto, di un odore strano, che lo eccitò. Gli parve anche che facesse l'atto di aprirgli le braccia, e ne fu tutto sconvolto, se le avesse aperte davvero. Ma Antonio disse a Ghisola: «È possibile che tu pensi a lui? Non vedi com'è brutto?» La contadina, specie per rispetto, rispose che non era vero, ma in modo che Antonio non se la prendesse troppo. Per non tenere Pietro proprio in ozio, Anna lo mise alle belle arti, perché aveva sempre avuto una certa tendenza al disegno, che a lei e a qualche avventore era sembrata da non trascurare. Una mattina in casa, ricopiando un brutto ritratto a stampa, Pietro si chiese perché provasse quell'indefinitezza per Ghisola. Allungava e piegava il collo per veder meglio gli effetti, ma il disegno, a malgrado dei suoi sforzi, era incerto e sbagliato. Si stupiva di non riuscirci e arricciava in giù e in su le labbra fino a toccarsi la punta del naso. I libri di quando andava a scuola, sporchi e slegati, erano tra i suoi piedi. Urtandoli, provò un lieve malessere che lo distrasse. Anche il disegno lo irritò. Una specie di suggerimento a lui noto assalì il suo cervello, come una polla d'accia che non gli permetteva mai di fare qualche cosa. Anche gli sembrava strano desistere. Perciò ebbe paura di se stesso e cercò di dimenticarsi fissando lungamente le palme delle mani, finché riuscì a non scorgerle più. Allora percepì un dolore dietro la scapola sinistra, al quale gli parve ridotto tutto il suo essere. E dopo un pezzo si avvide che il tavolino sul quale lavorava, essendo troppo basso, gli aveva aiutato quell'assopimento. Si alzò. La matita cadde spezzandosi. Raccattò i pezzettini con un vivo dispiacere quasi superstizioso. Perché è caduta? Esaminò il ritratto e poi la copia. E si sentì tanto scoraggiato che ne provò quasi affanno, come il culmine dell'indecisione e del dubbio che mai lo lasciavano in pace. E intanto un raggio di sole, un raggio pieno di sonno, aveva invaso tutto il foglio di carta. E Pietro pensò: è finita, non vado più avanti. Rebecca, che aveva spazzato tutte le camere, passò accanto a lui e gli disse: perché stai così, senza far niente? Le saltò addosso, dietro alle spalle, allacciando le mani sopra il volto. Rebecca rise con la bocca chiusa, insalivandogli le dita, e gli la fece barcollare. Poi, saltando, andò in un'altra stanza. Quella stessa mattina Ghisola si intestò di non alzarsi. Masa le chiese con ira: ti senti male, forse, dormigliona? Ma quella non rispose. E la vecchia, borbottando, andò in cucina a mangiare. Dopo un poco riaprì l'uscio e, affacciata, si chiese: perché non mi rispondi? Vuoi fare i gesti stamani? Ghisola sgorgugliò e si riavvoltolò sotto le coperte, con il viso dalla parte del muro. Masa non era capace di avere una lunga collera e, per giustificarsi, disse: ho visto che ridevi. E continuò a ingoiar la zuppa di accia, tenendosi la scodella in mano. Ghisola era molto stanca, aveva una di quelle stanchezze che lì per lì si sentono anche moralmente. Ma Masa, con una persistenza uggiosa, le disse ancora: io non ho da sprecare il fiato e a star con te non compiccio niente. Smettete dunque, non posso dormire, non voglio lavorare. Non devo tornare a Radda. Perché state così impalata? Le pareva di non aver dormito. E si stupì che Masa continuasse: e se il padrone non ti vuole più qui, diventi impertinente con me? Fece l'atto di batterle il cucchiaio sulla faccia, ma invece lo leccò di sopra e di sotto. In fondo la compativa e le dispiaceva di separarsene. Tornò in cucina. Ghisola, messa di buon umore da quelle parole, si alzò. In camicia fece una ghirlanda di fiori finti con certi pezzetti di filo di ferro, ai quali, l'anno avanti, era stata attaccata l'uva. Pietro aveva già perduto un anno di tempo alle belle arti senza che ancora fosse deciso sul suo conto. Il che doveva dipendere dai diversi pareri dei più vecchi avventori e da suo padre, che se ne ricordava soltanto molto di rado e con rabbia. Anna insisteva con pazienza, anche dopo l'infelice prova del disegno, persuasa che egli fosse intelligente, ma era destino che non potesse in alcun modo fargli del bene. Una mattina decise di portarlo dal parroco perché la consigliasse. Aveva già preparato il suo più bel vestito e voleva far lesta perché il marito non lo risapesse. Ci andava quasi di nascosto. All'improvviso sentì chiudersi il cuore sempre più stretto, ma non poteva gridare. Non si accorse nemmeno di cadere. Fu trovata con la testa sul pavimento, verso l'armadio che aveva aperto, tutta stesa in avanti, come quegli animali che hanno avuto una calcagnata sul capo, con gli occhi mezzo schiusi e pieni ancora di vita, con il viso un poco contratto, quasi che le rincrescesse della sua morte soltanto per gli altri, chiedendo di non esserne rimproverata, con una preoccupazione indescrivibile e dolorosa. Rebecca, che era andata a cercarla per riavviarle i capelli, fu la prima a vederla. Ella aprì subito le boccette che servivano quando si trattava delle convulsioni. Ma Anna non respirava più. «Signora padrona! Padrona!» Spaventata e tremando tutta, corse in cucina e si affacciò a gridare dalla finestra che rispondeva dinanzi all'uscio della trattoria. La intese un cameriere. «Il padrone, che venga subito!» Il cameriere, credendo che fosse un attacco di convulsioni più forte del consueto, posò il cencio che aveva in mano e andò in cucina. «Dov'è il padrone? Non è ancora tornato, è restato a pagare il conto dal droghiere. Correte subito a cercarlo, la padrona si sente male.» Lo sguattero che aveva risposto posò il coltello con il quale puliva il pesce ammonticchiato dentro l'acquaio. E tolto allora allora dalla sporta, si asciugò le mani, ravvolse il grembiule su al legacciolo ed uscì. Ma non poté trovare subito Domenico, che era andato a fare altre spese. Quando lo vide, tornarono ambedue quasi correndo. Per le scale Domenico sbatté contro il medico, suo amico e avventore, che scendeva ad aspettarlo. «Caro Domenico, ha ascoltato un momento.» Il trattore lo prese per le spalle. Il medico gli allontanò le mani fermandogli i polsi. «Domenico, questa volta, quella povera donna...» E gli gridò: «Mi lasci! È una convulsione!» Ma si sentì gelare tutto, con un gelo che gli veniva a ondate dalla cima delle dita e si fermava nel mezzo del capo. Credette lì per lì che si trattasse di un turbamento della sua intelligenza. Ma il respiro affannoso, a lui che respirava così bene, gli ricordò che la cosa quasi presentita era ormai venuta. Come affrontarla? Come vedere Anna morta? Doveva proprio andarci lui. E quando entrò nella camera, i muri e le porte traballavano e si spalancavano da sé. Credette di non vedere niente. Poi toccò il volto già freddo e un po' rigido. E allora chiuse gli occhi, si buttò sopra la moglie e cominciò a piangere. I suoi stessi gridi lo facevano tremare. Poco a poco sentì il suo dolore. Tutta la sua enorme violenza ora gli pareva cambiata in paura. Gli pareva che Poggio Ameli fosse trascinato via, lontano, ed egli non aveva il tempo di fare qualche cosa. Gli pareva che gli usci della sua trattoria si chiudessero da sé e non volessero essere riaperti, e che Anna avesse tanto sofferto per non poter parlare. E tutto crollava in lui. Il suo dolore era così pieno che tutti avrebbero dovuto consolarlo. Ora si pentiva di non averle voluto bene abbastanza. Anna s'era raffreddata poco a poco e, avendole qualcuno stese le palpebre, parve insolitamente estranea per la prima volta a tutta la gente che le era attorno. Qualcuno la prese sotto il mento e la compianse. Chissà che avrebbe voluto dire. Che passione! Povera donna così buona! Pietro la vide già portata sul letto, senza saper quel che ne dovesse pensare. Domenico gli parlò soltanto quando qualcuno glielo rammentò, ma senza nessun affetto, quasi con il bisogno di sfuggirlo. E proprio in quel momento sperò ancora di più di tenerlo con sé per la trattoria. Continuava intanto a gridare che l'udivano anche dalla strada. «Sembra che stia per scendere dal letto!» Francesco Siciliano ha letto «Con gli occhi chiusi» di Federico Tozzi, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.